sterillando sul muletto. Jesse il bandito se ne va, senza pistola, con un fischietto, fa l'assalto dei vagoni letto. E lo sceriffo maledetto, che il porto d'armi non gli dà, pronto all'agguato sta nel boschetto, questa volta dice non mi scapperà. Ma il bandito furbacchione, vestito da capostazione, trascinandosi un vagone, gli passa davanti così, trotterellando sul muletto. Jesse il bandito se ne va, e lo sceriffo sta nel boschetto, ripetendo ancora non mi scapperà. Ma il bandito furbacchione, vestito da capostazione, trascinandosi un vagone, gli passa davanti così, trotterellando sul muletto. Jesse il bandito se ne fa, e lo sceriffo sta nel boschetto, e notte di l'aspetterà.